514. Cieche alla Pisana. Vedi anguilla numero 490. Lavatele diverse volte e quando non faranno più la schiuma, versatele sullo staccio per scolarle. Ponete al fuoco olio, uno spicchio due d'aglio interi, ma un po' schiacciati e alcune foglie di salvia. Quando l'aglio sarà colorito, versate le cieche e, se sono ancora vive, copritele con un testo onde non saltino via, conditele con sale e pepe, rimuovetele spesso col mestolo e bagnatele con un poco d'acqua se prosciugassero troppo. Cotte che siano, legatele con uova frullate a parte, mescolate con parmigiano, pan grattato e limone. Se la quantità delle cieche fosse di grammi 300 a 350, la quale basta per 4 persone, potete legarle con uova numero 2, parmigiano 2 cucchiaiate, pan grattato 1 cucchiaiata, mezzo limone e un po' d'acqua. Se le servite nel vaso ove sono state cotte, ponetele per ultimo fra due fuochi, onde facciano alla superficie la crosticina in bianco. Il chiarissimo professor Renato Fucini, la me non eritan fucio, il quale a quanto pare è un grande amatore di cieche alla salvia, si compiace farmi sapere che sarebbe una profanazione o un sacrilegio se queste, benché sembrino teneri pesciolini, si tenessero a cuocere per un tempo minore di una ventina di minuti almeno. 515. Cieche fritte prima maniera. Cuocetele in umido con olio, aglio intero e salvia, come quelle descritte al numero precedente. Poi, levato l'aglio, tritatele minute. Frullate delle uova in proporzione, salatele, aggiungete parmigiano, un poco di pan grattato e mescolateci dentro le cieche per friggerle a cucchiaiate e fatene frittelle che servirete con limone a spicchi e pochi mangiandole si accorgeranno che sia un piatto di pesce. 516. Cieche fritte seconda maniera. Ho visto a Viareggio che le cieche si possono friggere come l'altro pesce. Infarinate soltanto con farina di grano di gran turco e gettate in padella, e in questa maniera le avrete più semplici, ma assai meno buone di quelle descritte al numero antecedente.